Lunedì 8 marzo 415. È l'undicesima ora. Nell'aria aleggiano i primi respiri della primavera. I pazzi ed io ci stiamo recando ai sotterranei del Serapeo, ma i due sacchi che abbiamo prelevato l'ultima volta abbiamo infilato un rotolo in cui erano citate opere di atomismo di cui non avevamo mai sentito parlare. La mia maestra sta ultimando un trattato sulla luce, uno studio straordinario che apporterà una vera rivoluzione all'attuale concezione del mondo. I testi che cercheremo di trovare nei sotterranei potrebbero contribuire a completare questa ricerca. Cavalca davanti a me il suo nuovo cavallo, uno splendido animale bianco. Indossa il tribone, il suo immancabile mantello nero, con i capelli bruno-oro liberi sul collo e sulle spalle. La seguo con il mio ronzino marrone, un animale docile ma dotato di incredibile energia. E alla fine di Via di Nocrate ha inizio il declivio che porta alla colonna di Pompeo, ma un fumo si sta levando dal monumento in mezzo a una gran folla. Sproniamo i cavalli, ci avviciniamo e là dove c'era la lastra di marmo con la botola per accedere ai sotterranei del Serapeo, è stata scavata una grotta e dal cunicolo fuoriesce una densa colonna di fumo acre. Papiri e codici stanno bruciando. In mezzo alla gente ci sono parecchi monaci parabolani che brandiscono fiaccole accese, fissano in silenzio il fumo, inginocchiati come se stessero pregando. Torniamo indietro. Sul volto di Pazzi al rinnovarsi dello stesso strazio di tanti anni fa. Mi grida di seguirla, vuole andare dal prefetto. Tagliamo per il quartiere occidentale e raggiungiamo via Canopica. Percorriamo via del Soma, entrando all'interno del quartiere Bruchion verso il Teatro Grande. Proprio di fronte a questo sorge il palazzo prefettizio. Ma quando passiamo davanti al Cesareo, scorgiamo una folla immensa assiepata attorno alla cattedrale, che si dirama sino agli obelischi di Cleopatra. Aggiriamo la moltitudine, diretti al Teatro Grande, dove un curiale accompagna Ipazia ad Oreste. Sistemati i cavalli, io torno indietro a piedi e mi unisco alla folla che sta ascoltando la predica di Cirillo. Sono tutti uomini. Il vescovo è sistemato sul podio, alla sommità delle scale e sopra un pulpito di legno. La sua voce squillante è una sferza implacabile. Gesticola pochissimo. Ipazia rappresenta un pericolo, non soltanto per noi cristiani, ma per tutta la città, per l'umanità intera. Molti di voi hanno potuto ascoltare ciò che va predicando. Ormai non passa giorno che quest'empia donna non scenda per strada in qualunque angolo della città a predicare contro di me. Con la sua demoniaca avvenenza è riuscita a stregare il prefetto Augustale a causa dei suoi incantesimi. Oreste ne è diventato schiavo e la favorisce in ogni modo. Questa empia filosofa, che molti ha stregato con le sue arti sataniche, sta facendo di tutto per mettere me e voi in cattiva luce presso il prefetto e quindi presso la corte di Costantinopoli, seguendo lo stesso disegno che Eudossia tramò e realizzò per esiliare Giovanni Crisostomo. Voi sapete quanti contrasti ci siano stati tra mio zio e Giovanni. Ciò nonostante io non posso non concordare con molte idee del vescovo di Costantinopoli. Eudossia non gli perdonava la sua sincerità quando dal pulpito diceva che la donna porta il marchio di Eva e che Dio non ha concesso alla donna il diritto di ricoprire una carica come la mia di guida spirituale. È Dio a volerlo, non il vostro vescovo e patriarca Cirillo, non Giovanni Crisostomo, non il vescovo di Ippona Agostino, non Ambrogio. Eppure lei, la donna, quando trova un varco, un punto debole, una crepa nel sistema, prova sempre a ribellarsi alla sua condizione voluta da Dio e a ricoprire una posizione di autorità. Gli elleni sono potentissimi, miei cari. È gente importante che mira a rendere schiave tutte le creature. Sono gli ultimi difensori dei privilegi antichi. Rifiutano il messaggio innovatore di Gesù Cristo. Nostro Signore ha predicato fratellanza e uguaglianza fra tutti gli uomini e queste malefiche creature lottano per mantenere i loro privilegi. Alla filosofa Ipazia e si ferma, facendo sì che l'eco prolunghi nell'aria il nome della mia maestra assieme alla vibrazione di una minacciosa risonanza. A quest'empia donna ho offerto la possibilità di salvarsi e di non seminare più zizzania. Le ho chiesto di convertirsi alla croce e di ritirarsi in un convento lontano. Quest'offerta l'ho fatta alla presenza del prefetto Augustale, ma questa creatura del demonio ha rifiutato, deridendomi. È lei la causa dell'odio che il prefetto nutre per me, per il vostro patriarca e pastore, e quindi anche per voi che siete le mie fedeli pecorelle. È lei che ha ordinato al prefetto di sputare sul libro dei Vangeli che io gli stavo porgendo per indurlo al rispetto di noi cristiani. È lei la causa dei pessimi rapporti che Oreste invia alla corte di Costantinopoli, rapporti in cui noi, i seguaci dell'unica vera religione, veniamo rappresentati come demoni. Noi cristiani siamo ormai la maggioranza ad Alessandria, mentre i pagani sono una minoranza, ma come vi dicevo, sono potenti, perché nelle loro file militano creature demoniache come questa donna, che sotto le sembianze della bellezza e del peccato vogliono arrestare il cammino della verità rivelata e della salvezza eterna. E nel frattempo costei è riuscita, tramite il suo sottomesso prefetto Augustale, ad ottenere da Costantinopoli privilegi e immunità e molto denaro per lei e per tutti gli intellettuali dell'Egitto. Matematici, geometri, astronomi, retori, giuristi, medici, scienziati, filosofi, tutti pagani, tutta gente che ha sempre vissuto di privilegi, che non ha mai lavorato da secoli. Sono una casta privilegiata, piccola ma potente. E chi comanda questo gruppo di elleni è lei, la figlia di Teone, e sta mettendosi in contatto con i privilegiati di Atene, di Efeso, di Costantinopoli, di Antiochia, costituendo il movimento degli elleni. Ebbene che sappiate che Ipazia pratica guarigioni attraverso la musica, predica addirittura che insegnerà alla gente come sconfiggere la morte, e accentua il tono minaccioso, non la morte dell'anima, non la possibilità di non far morire il nostro spirito. Lei si riferisce a questo corpo, questo povero caduco corpo. Demoniaca creatura, devota in ogni circostanza alla magia, agli astrolabi, alla musica, Ipazia, promette cose impossibili con il solo scopo di strapparvi a Gesù Cristo e alla salvezza finale. Questo lupo affamato sta penetrando ogni giorno nel nostro gregge per seminare zizzania nei vostri cuori, nelle vostre famiglie, nei vostri figli. Io sono il vostro pastore e ho il dovere di dire basta. È giunta l'ora di imitare l'arte dei bravi medici. Non subito col fuoco e col ferro spietatamente curano i morbi e le piaghe quando appaiono sui corpi umani, ma spalmata dapprima la piaga, con leggero fomento rimettono l'ustione e il taglio al momento opportuno. La causa di tutti i mali e di tutte le disgrazie che stanno cadendo su questa città, la causa del pericolo che stiamo correndo, ovvero di essere abbandonati dal regno divino e dalla corte di Costantinopoli, ebbene questa causa ha un solo nome, Ipazia, una donna. E punta un dito accusatore nella direzione di Via del Sole, digrignando i denti. Mentre Cirillo continua a istigare la gente in delirio, io mi ritiro lentamente, poi mi metto a correre, raggiungo il palazzo prefettizio, mi volgo indietro a guardare il teatro. Da quella posizione riesco a intravedere uno spicchio della cupola del Cesareo. Sono trafelato, il cuore mi batte forte, mi assale lo stesso senso di angoscia di quel giorno, di quel tramonto rosso come il sangue in cui la cupola venne completamente ricoperta dai corvi neri. La predizione di Olimpio, un cielo gonfio di sangue, il sangue che colava dal cielo. Mi faccio annunciare dal curiale e corro dal prefetto. Oreste ha ancora una profonda cicatrice sulla tempia. La sua faccia è scavata, scura. Mi saluta, mi invita a sedere accanto a lui. Ipazia mi chiede il perché del mio affanno. Cirillo sta istigando la gente contro di te. Ti attribuisce la causa di tutti i mali di questa città. Lui non riesce a riconciliarsi con Oreste a causa tua. Tu stai seminando zizzania nel gregge cristiano. E scuoto la testa, preoccupato dinanzi al suo sorriso bonario. Ipazia, per carità, non fare quella faccia, questo non è un gioco. Mentre venivo via, il vescovo continuava incitando le sue pecorelle a non farsi sbranare da questa figlia del demonio. Devi fuggire, devi andartene via da Alessandria. E mi giro verso Oreste. Diglielo tu, diglielo, amico mio, dille che questo non è uno scherzo. Stavo parlando proprio di questo, Shalim. Stavo ricordando a Ipazia che quando subii l'attentato inviai un'altra relazione a Costantinopoli affinché Pulcheria fosse informata su ciò che stava accadendo qui, affinché facesse qualcosa. Cirillo fece lo stesso, riferendo una versione completamente falsa. Sapete perfettamente che quel figlio del male fece prendere il corpo di Ammonio, cambiò il suo nome in Taumasio, se lo fece mettere in una chiesa e ordinò alla popolazione di considerarlo martire. Avreste dovuto essere presenti alla predica che fece. Elogiò il nobile animo del defunto che aveva preferito essere ucciso piuttosto che rinnegare la fede in Cristo. E scuote la testa, occhi colmi di angoscia. Meno male che quella sera, prima che Scialì mi salvasse, in mezzo alla folla c'erano parecchi cristiani che sparsero la voce e pregarono Cirillo di riconciliarsi con me. Lo fisso con stupore. Oreste, e perché non l'hai fatto in nome di Dio? Si morde le labbra, lo sconforto sul volto e negli occhi. Non potevo. Sono un pessimo prefetto, un cattivo funzionario dell'impero Shalim. Ho un cuore, un'etica, una morale. Non ce l'ho fatta. Non riesco a recitare sino a questo punto. Ipazia cerca di placare gli animi. Hai seguito i tuoi principi, il tuo canone di verità, ed era irrilevante comunque che ti riconciliassi o meno con Cirillo. A Costantinopoli. In ogni caso hanno creduto alla versione del vescovo. Pulcheria crede a Cirillo, non a te. Pulcheria è in mano a Cirillo e Agostino. E tu non puoi farci niente. E si alza in piedi. Si avvicinano i due. Poggia una mano sulla spalla di ognuno. Il contatto delle sue dita mi trasmette un senso di pace. Oreste, Shalim. Non sprecate tanta energia in questa lotta in cui ormai nessuno di noi tre può far niente. Oggi il mio cuore è triste perché ho perso anche Davide e Samuel e perché è stato bruciato l'ultimo rifugio del sapere. Le sue tremule falangi mi straziano una spalla. Mi dispiace, Ipazia, non posso prendere alcun provvedimento. Vescovi, preti, tutto quello che c'è sopra e sotto le chiese è di competenza e proprietà loro. Se commettono un delitto io non posso fare nulla, i nostri magistrati non hanno il potere di processarli. A nulla vale la presenza delle truppe imperiali, di stanza qui ad Alessandria, ormai impegnate quasi esclusivamente nel fare la guardia alle chiese di Cirillo. Purtroppo quello che resta del Serapeo è stato trasformato in una chiesa e i sotterranei sono di proprietà di Cirillo. Oreste è abbattuto. Ma la preoccupazione di Shalim la condivido appieno. Sono stato al Cesareo parecchie volte in queste 2 ultime settimane e ogni volta Cirillo ha istigato la gente contro di te, perché tu sei la causa di tante rivolte e di tanti omicidi. Ieri ho provato a interromperlo, a dire che non era vero, che io ero lì per dimostrare il contrario, ero sul punto d'essere disposto anche a riconciliarmi con lui. Ma i monaci urlavano ed è accaduto il finimondo. Cirillo ha cominciato a inveire contro di me, accusandomi di essere tuo schiavo e amante, e i suoi occhi miti si riempirono di dolore. Centinaia di monaci hanno trascinato me e i curiali del mio seguito fuori dalla cattedrale, mentre anche la gente inveiva contro di me. Ormai a Costantinopoli non conto più nulla. Hanno cacciato il mio amico Antemio, il prefetto del pretorio di Oriente, e al suo posto ora c'è Elion, consigliere di Pulcheria, ormai nominata Augusta, preoccupato solo per i barbari. Di Cirillo, della chiesa e del tuo centro studi non gliene importa niente. Ti scongiuro, Ipazia, domani mattina prendi la prima nave che salpa per l'Oriente e fuggi, almeno per un po' di tempo, in un paese dove ancora non è arrivato l'impero romano e il cristianesimo. In questo momento sei l'unica che può tenere accesa la favilla della speranza. Non puoi finire invischiata in questa storia di potere. Promettimelo, Ipazia, promettimelo. E le afferra le mani, le stringe fissandola con occhi febbricitanti. Ci penserò, amici miei, e questa notte prenderò una decisione. E il suo sguardo sereno diluisce qualche briciola della mia trepidazione. Pur di continuare i miei studi, sono disposta a tutto, in special modo adesso che sono riuscita a dare inizio al mio trattato sugli atomi. Sul vuoto e sulla luce. È incredibile quello che sto intuendo. È meraviglioso. La luce, lo studio della luce. La luce è composta di atomi. Il nostro spirito è fatto di atomi. Ma ho bisogno di un enorme laboratorio e di tanto tempo e di tanti studiosi come Shalim. E di un ambiente un po' sereno, amica mia. La interrompe Oreste. Io ti aiuterò come posso e Shalim ti starà sempre accanto e forse un giorno le cose cambieranno e potrai tornare nella tua città. Ma adesso È giunta l'ora di proseguire le tue ricerche in un'altra terra. E annuisce col capo mentre, lucido e struggente, il dolore percorre i suoi lineamenti e oscura i suoi occhi. Prima di tornare in Via del Sole, Ipazia mi ha chiesto se avevo serbato memoria della promessa che le avevo fatto e a malincuore le rispondo di sì. Nel borsotto ho portato con me la cetra e l'aulos. Quello che le ho nascosto è che da qualche settimana porto con me anche un affilatissimo gladio. E nonostante il timore che mi serpeggia nell'animo, l'ho accontentata e pur facendo un giro inconsueto lungo il canale occidentale abbiamo attraversato la porta della luna e tramite la striscia dell'Eptastadio abbiamo raggiunto l'isola del Faro e le rovine del tempio di Poseidone. Ci siamo seduti sugli stessi gradini di tanti anni fa. Il sole davanti a noi è stato appena risucchiato dal mare. L'orizzonte sta diluendo in sfumature viola e azzurre. Con un ritmo melodico, le onde risuonano sull'isolotto, sulla riva pietrosa disseminata di resti del tempio, di statue di amazzoni inginocchiate, di piccoli satiri impegnati in un'impari battaglia contro i giganti. Te la senti di seguirmi in un altro paese, Shalim? Ha gli occhi fissi nell'orizzonte, non vuole perdere nemmeno un istante. Di questa meravigliosa vista del mare che inghiotte i residui del polverio rosso. Penso che ormai non ti libererai più di me e mi giro ad ammirare il suo profilo. Avvolta nel mantello nero, una mano tiene la cetra, le dita aggrappate alle corde, l'altra, attorno al collo esile, i capelli ricci e ribelli le sfiorano le guance, le ciglia, la bocca schiusa, l'accenno delle perle dei denti. Deve sentire il mio sguardo, come accade sempre più spesso negli ultimi tempi, si gira verso di me, bella come il sole. Ipazia, ultimamente ho approfondito molto lo studio della musica, ho letto tutto il trattato di Nicomaco di Gerasa, Pitagorico, la sua correlazione tra suoni e rapporti numerici. E non mi dire che hai imparato i 28 suoni? E i suoi occhi si illuminano di brio. Oh! So tutto sul proslambanomene e sull'ipateipaton, ma amo più di tutto il suo pensiero sulla musica cosmica dei pianeti che invade i nostri sensi e ispira la musica terrena su sua imitazione. Ma, dice Nicomaco, nella luce degli occhi è racchiusa la scienza del ritmo, della melodia e di tutto il mistero della musica. Ipazia aggrotta le sopracciglia. Sembra che tu sia diventato un vero esperto di questa materia, eppure il manuale di armonica di Nicomaco l'ho studiato anch'io. Ero una ragazzina, ma questa faccenda che nella luce la interrompo, il cuore mi martella, era solo un pretesto per chiederti se posso baciarti gli occhi. E riesco a farmi forza, a non abbandonare il suo sguardo. Spira un venticello dolcissimo. La luce del giorno sta svanendo nel mare. Pazia mi fissa attraverso le corde della cetra, se ne libera mettendosela in grembo. Avvicina il volto al mio e offre i suoi occhi alle mie labbra. Serra le palpebre. Le bacio prima un occhio, poi l'altro, con la dolcezza di un amore che dura da una vita intera. Grazie, Shalim, per aver dedicato la tua vita a me. È stato bellissimo averti accanto e perdonami per non essere stata tua come desideravi. Sia tu che madre natura. È emozionata come me, negli occhi i rimasugli dorati del tramonto brillano, umidi. È lei a sollevare un po' il volto, a porgermi le labbra tremule. Le sfioro con le mie, ci baciamo con una dolcezza che nulla ha a che fare con l'uragano di tanti anni fa. Sei stato l'unico compagno della mia vita, Shalim. Gli occhi umidi, semichiusi. Si abbandonano all'oro del tramonto. Le accarezzo una guancia intessuta di tiepida seta. Potevo non essere mai nato. Era nelle possibilità matematiche, no? E invece ho conosciuto la vita, il Nilo, le piramidi, la biblioteca di Alessandria, il faro. E invece di essere imprigionato nel buio e nel nulla, ho conosciuto il sole, il mare, il vento. E ho vissuto al tuo fianco, Ipazia. Cerco di stringerle la chioma ribelle. Quando attacchiamo la costellazione della musica, il sole è tramontato, ma la voce di Pazia è melodiosa, che pare giungere da un altro mondo. Sono frammenti di energia e di purezza che si insinuano nei regni più belli del mio cuore. Qui sospendo la lettura del libro di Adriano Petta e Antonino Colavito perché non sarei in grado di rendere emozionalmente la parte inerente all'assassinio di Ipazia. Come sappiamo, quella notte stessa Ipazia fu massacrata in una maniera infame e fu vittima sacrificale di un femminicidio, immolata al potere patriarcale. Riprendo la lettura dall'epilogo. Conclusione degli accadimenti e risonanza nei tempi. Dopo il massacro di Ipazia, il prefetto Augustale Oreste inviò a Bisanzio un rapporto sui fatti accaduti, ma i curiali che partirono per Costantinopoli non erano quelli che aveva scelto lui, bensì gente pagata dal vescovo Cirillo. La corte di Costantinopoli inviò ad Alessandria il commissario Edesio. Cirillo corruppe anche lui, salvando così se stesso e il suo braccio destro, l'assassino di Ipazia, Pietro il Lettore. La corte di Costantinopoli successivamente inviò al nuovo prefetto del pretorio d'Oriente, Monaxius, due leggi, datate 29 settembre e 5 ottobre del 416, in cui si ordinava che il numero dei parabolani non dovesse superare le 500 unità e che non dovessero immischiarsi negli affari della vita pubblica. Ma il venerdì santo del 20 aprile 417, 2 anni dopo la morte di Ipazia, ci fu un forte terremoto ad Alessandria. E l'opera dei parabolani fu preziosa per l'aiuto prestato alla popolazione. L'anno dopo, nel 418, l'Augusta Pulcheria a Costantinopoli emanò una nuova legge che annullava le due precedenti, tornando a concedere al vescovo di Alessandria la totale responsabilità e paternità dei parabolani e autorizzandolo ad incrementare il numero da 500 a 600 unità. Il vescovo e patriarca Cirillo governò Alessandria da padrone assoluto per i successivi 30 anni. I libri di Ipazia e di tutta la scuola alessandrina furono bruciati, con la sola eccezione del suo commento alla Syntaxis, la sua memoria cancellata. A parte Ierocle, di cui sono rimaste solo due modeste opere di filosofia neoplatonica, e il poeta Pallada che con i suoi versi cantò l'irreprensibilità dei costumi, l'alto sentire, l'accuratezza e il savio giudicare della filosofa e astronoma alessandrina, tutti i discepoli della scienziata scomparvero e di loro, del loro pensiero, delle loro opere nulla è rimasto. Alcuni riuscirono ad emigrare in India, tra cui Paulisa, autore dell'opera astronomica Paulisa Siddhanta, importandovi le ultime scoperte di trigonometria e astronomia. Il massacro di Ipazia segnò la fine della più importante comunità scientifica dell'umanità. Ci è pervenuta però una parte dell'opera di uno degli allievi più autorevoli di Ipazia, Sinesio di Cirene, vescovo di Tolemaide. Dalle sue lettere, indirizzate alla maestra, si apprende che Ipazia è stata la madre della scienza moderna, in quanto all'analisi teorica dei problemi di fisica e di astronomia faceva seguire la sperimentazione pratica. Il grande matematico del Seicento, Pierre de Fermat, studiando l'idroscopio realizzato dalla scienziata alessandrina, rese omaggio alla grande Ipazia che fu la meraviglia del suo secolo. Mentre la sua maestra era ancora in vita, Sinesio scriveva: «L'Egitto tien desti i semi di sapienza ricevuti da Ipazia». Le testimonianze antiche su Ipazia sono offerte principalmente da quattro storici: Socrate scolastico nella storia ecclesiastica, Filostorgio nella storia ecclesiastica, Sozomeno nella storia della Chiesa, tutti contemporanei di Ipazia, e da Damascio, ultimo direttore dell'Accademia Platonica di Atene, che scrisse di lei 50 anni dopo il suo massacro. Ambrogio, Giovanni Crisostomo, Agostino e Cirillo vennero fatti santi. Sant'Ambrogio, San Giovanni Crisostomo, Sant'Agostino e San Cirillo di Alessandria sono stati elevati inoltre al rango di dottori e padri della Chiesa universale. Per i successivi 1200 anni la Chiesa di Roma manovrò principi, re e imperatori per tenere a freno il suo più acerrimo nemico, il sapere, la conoscenza, soprattutto la scienza della scuola alessandrina. Il 17 febbraio dell'anno santo 1600, la Chiesa di Roma fece bruciare vivo Giordano Bruno, il filosofo e scienziato che aveva studiato gli atomisti greci e che attraverso le opere di Democrito aveva capito l'essenza di quegli universi infiniti che i pazzi aveva intuito. Il 22 giugno 1633 la Chiesa di Roma fece imprigionare ed abiurare il padre della scienza moderna, Galileo Galilei, il quale aveva proseguito l'opera iniziata dalla scuola alessandrina e da Ipazia nella sperimentazione della scienza e che nel dialogo sui massimi sistemi del mondo aveva avuto il coraggio di proporre l'ipotesi eliocentrica che l'alessandrino Aristarco di Samo aveva formulato nel 280 a.C. e che Ipazia aveva elaborato. Papa Pio XII nel 1944, per festeggiare i 1500 anni della morte di San Cirillo di Alessandria, la cui opera teologica è alla base del dogma della Vergine Madre di Dio, promulgò l'enciclica Orientalis Ecclesiae per esaltare con somme lodi e tributare venerazione a San Cirillo, a colui che aveva cacciato e fatto massacrare ebrei, nestoriani, novaziani, chiamati catari puri, e pagani da Alessandria d'Egitto. Il vescovo patriarca San Cirillo aveva studiato per 5 anni, dal 394 al 399, nel monastero della montagna della Nitria, nel deserto di San Marco, e lì era stato ordinato lettore. In questo monastero aveva stretto vincoli di amicizia con gran parte dei monaci parabolani di cui si servì per sterminare ebrei, nestoriani, novaziani e pagani, e soprattutto con Pietro il lettore, a cui 16 anni dopo ordinò di trucidare Ipazia, l'ultima voce libera dell'antichità. Fine.